Subhana zil mulki wal malakut. Sia glorificato colui che possiede il regno e la sovranità. Subhana zil izzati wal uzma. Sia glorificato colui che possiede la gloria e la sublimità. Wal kudrati wal haiba. La potenza, l'autorità. Wal jalali wal jamali wal kamal. La maestà divina, la bellezza, la perfezione. Wal baqa'i wal thana'i wal diya'i wal a'la. L'immortalità, la lode, lo splendore, il dono. Wal na'ma'i wal kibriya'i wal jabarut. La grazia, la maestà e l'onnipotenza.